Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Giovanni, Arduino e Maximilian sono i Tauro Boys, gruppo della nuova generazione romana. Escono con un nuovo singolo, Schiava di Roma. Maximilian Dellopreite. Tauro Boys, diciamo, sono innanzitutto tre amici. Prince e Young Pava si conoscono proprio dalla culla, perché le loro madri erano amiche dal liceo. Io conosco Giovanni dalle medie, tutti insieme eravamo in classe al liceo. Quindi siamo principalmente amici, che condividevamo tante passioni insieme, tra cui la musica. Quando ci siamo resi conto che ci interessava particolarmente e ci riusciva anche particolarmente bene, dopo un po' di tentativi abbiamo deciso di creare questa formazione a tre. È un momento molto fecondo per Roma e per la vostra scena. Sì, questa nuova corrente di trap, volendo, è molto più morbida magari di quello che era l'hip hop precedente, quindi ci sono molti più modi per esprimere, anche molte più sonorità che si possono toccare, e per una serie di motivi Roma sta avendo una ribalza grazie a questa nuova sonorità. Nuove sonorità e nei testi com'è? Perché sai che in molti hanno paura dei testi della trap, sì, e del rap. Anche lì nasce, diciamo, la trap come origine, viene comunque da situazioni degeneranti in America, Atlanta, città comunque dove c'è una criminalità abbastanza alta, ed è un po' un racconto di quello stile di vita, quindi chiaramente c'è un messaggio che è molto crudo. In Italia è diversa, nel senso si può scegliere se abbracciare quella strada lì, ma comunque la cosa che ad esempio a noi interessa sono le sonorità, però poi noi non veniamo da quella realtà, siamo ragazzi di Roma Centro, non abbiamo quel background culturale, raccontiamo quello che ci va di raccontare. Cioè, secondo me la trap è un genere molto libero, si sbaglia a pensare che è soltanto inerente a quelle tematiche, nasce con quello, però poi spopola in tutto il mondo e chiaramente lo si può abbracciare, ma rendendolo proprio. Schiava di Roma, Dio la che ha, lacrima, sangue è solo per noi, cari fratelli, l'Italia vivrà, portare pazienza una linea di massima. Massimo rispetto, pessime abitudini, sto su un elicottero ad altre altitudini. Storia di Roma, Dio la che ha una missione che durerà, sono di alta magnitudine come una stella, Augusto imperatore. Oddio, ora si accollano, questi vogliono una sosta, siamo i gemelli di Marte, i veri figli di Troia. Posso prendere la spada e rimetterla a posto, tanto mi passa la voglia. Schiava di Roma, Dio la che ha, lacrima, sangue. Mi racconti di Schiava di Roma, perché è un pezzo che potrebbe essere perfetto per questi tempi che stiamo vivendo, ma non è stato scritto adesso. No, esatto. Diciamo, dopo il disco che era Alfa Centauri abbiamo preso un grande periodo di pausa per capire un attimo la direzione nuova che avremmo voluto intraprendere. Schiava di Roma era però da sempre, già da un anno, questa parte praticamente era stata chiusa in concomitanza di Alfa Centauri, era stato iniziato il progetto, la bozza in concomitanza di Alfa Centauri, e già ai tempi ci interessava molto il fatto così di riproporre in maniera un po' anche saccente un nuovo inno giovane, era anche un po' più provocatorio inizialmente. Abbiamo quindi poi continuato a fare musica, collezionato provini nuovi, e Schiava di Roma era quello che comunque ci piaceva più di tutti. Visto che erano passati molti mesi dalla nostra ultima release, ci aspettavamo di fare le cose abbastanza in grande, quindi di pianificare tutto quanto al minimo dettaglio, ed è arrivata questa emergenza Covid che ci ha frenato. Inizialmente abbiamo detto ok, non usciamo, continuiamo a pazientare e aspettiamo che finisca tutto per preparare al meglio la cosa. E invece ci siamo resi conto che era proprio il momento giusto quello di riproporre un inno e comunque un canto di speranza anche. E quindi alla fine è calzata a pennello la situazione. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con i Tauro Boys. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.